9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno caro ascoltatore, questo giovedì di fine luglio, il 29 di luglio, lo dedichiamo a un approfondimento che vi ho promesso due settimane fa. Due settimane fa, quando scattò nella notte tra il 12 e il 13 luglio una grandissima operazione da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, il cui nome era Operazione Crimine. Un'operazione che ha portato ad oltre 300 arresti e il cui fine era quello di perseguire reati pesanti, associazioni di tipo mafioso, traffico d'armi, stupefacenti, omicidio, estorsione, usura, gravissimi reati associativi. Nel mirino l'Andrangheta non solo in alcuni suoi mandamenti di Reggio Calabria e della Locride, ma nella sua proiezione un mandamento aggiuntivo in quanto tale, cioè la Lombardia, con molti arresti in Lombardia, con l'individuazione di un capo dei capi dell'Andrangheta in Lombardia, Domenico Pedisano, di 80 anni, con l'individuazione di imprenditori collegati e con l'individuazione di ambiti politici collegati, perché negli provvedimenti cautelari assunti, nei sequestri per molti milioni di immobili, nella rete di questa amplissima operazione sono finiti ex assessori provinciali, sono finiti un ex direttore sanitario della ASL di Pavia, intorno a Pavia diverse figure politiche sono finite nella rete, nel mirino della magistratura. Allora noi ce ne occupammo, se vi ricordate, e ci ponemmo il problema, che continueremo a porci anche oggi, sarà uno dei tre problemi che ci poniamo oggi: se il reticolo del radicamento dell'Andrangheta e delle grandi associazioni di tipo mafioso in Lombardia e nel nord non fosse anno dopo anno nelle denunce e nelle indagini delle forze dell'ordine ormai così profondo e così radicato da non indurci a dover porre una domanda con grande sincerità, cioè se davvero il nord fa tutto quello che è giusto per contrastare questo radicamento, per contrastarlo con gli stessi atteggiamenti che poi si chiedono al sud, cioè innanzitutto quello di non essere omertosi. Quindi prima domanda che vi chiedo di porci e che approfondiremo: facciamo abbastanza qui per impedire che questo radicamento risulti altrettanto soffocante che nel sud storicamente, visto che qui c'è il denaro, ci sono gli affari non solo immobiliari ma di tutti i tipi, ci sono aziende in crisi che vengono rilevate dalle reti andranghetiste e quindi si subentra nel tessuto dell'impresa? Prima domanda. Seconda domanda: all'indomani dell'operazione alcune cose alla prima lettura degli atti non ci convincevano molto, ma decidemmo ovviamente di non mettere il nostro fuoco dell'attenzione su quei punti, perché come è ovvio, di fronte a centinaia e centinaia di pagine di atti giudiziari bisogna prendersi il tempo giusto, perché prima di permettersi di porre dei dubbi e degli interrogativi bisogna fidarsi delle magistrati e delle forze dell'ordine, leggere bene e approfondire. Però a distanza di settimane noi l'approfondimento lo abbiamo fatto, e lo ha fatto in particolare un collega che per l'intero gruppo si occupa specificamente ogni giorno di queste questioni, e Roberto Galullo, che era quel giorno con noi e torna oggi con noi, che ha approfondito con le sue fonti, con molti magistrati, i filoni di quell'operazione crimine, e oggi può rispondere insieme a noi a un punto che a me colpisce, mi ha colpito quel giorno sono stato zitto, poi ne abbiamo parlato con lui e lui oggi è in grado di dirci qual è questo secondo punto, oltre a quello dell'omertà di cui ci occupiamo oggi, del come mai in quell'indagine la politica e le liaison politiche restano e vengono colpite e fatte oggetto di provvedimenti cautelari nel nord, mentre, con mia grande sorpresa, in Calabria le liaison politiche non ci sono. E allora vedremo come e se questo punto è un punto che ci vuol dire qualche cosa o ci promette qualcosa per il futuro, oppure è un punto interrogativo serio su questa indagine, che ha anche altri aspetti come il fenomeno descrittivo di come le famiglie calabresi individuano questo capo ottantenne in una riunione in un ristorante, che sembra un po' come le primarie. Il PD non fa più le primarie a casa sua e le fanno le famiglie della Calabria nei ristoranti per eleggere un ottantenne capo, non lo so, quindi questo ce lo chiederemo, ce lo spiegherà Roberto Galulo. Terza cosa di cui ci occupiamo oggi è quella connessa all'intervista rilasciata da Roberto Saviano, autore di Gomorra, icona della lotta antimafia. Dico icona con un punto così di qualche distacco, perché secondo me quando si diventa icone poi si tende a dover parlare come le tavole della legge, mentre io sono sempre per il dubbio critico nei confronti di tutti, a cominciare da me stesso. Non sottovaluto il grande impatto che Roberto Saviano e la sua Gomorra ha dato a far concentrare un intero paese sulla lotta alla camorra e alla criminalità organizzata. Naturalmente nessuno per me è il profeta. Detto tutto questo, in un'intervista a Vanity Fair ieri, apertamente rispondendo proprio alla primissima domanda, Roberto Saviano dice esplicitamente: il sud è la ferita aperta attraverso cui tutto si fa passare, il tessuto apparentemente sano del nord è sano solo perché lì le mafie investono ma non sparano. E si chiede Roberto Saviano: la Lega ci ha sempre detto che certe cose al nord non esistono, ma l'inchiesta sulle infiltrazioni dell'Andrangheta in Lombardia racconta una realtà diversa. Dov'era la Lega, parola di Saviano, leggo, quando questo succedeva negli ultimi 10 anni laddove ha governato, e perché adesso non risponde? Ora, io non so se non risponda. Il mio tentativo è quello invece di farla rispondere, perché ho l'impressione che la Lega ci fosse, che qualche cosa ha fatto. Francamente ho un'idea un po' diversa da quella di Saviano, cioè il sottinteso è che la Lega è alleata con l'Andrangheta. Non lo so se è muta e connivente, non lo so, lo chiederemo a loro. Allora, questi tre filoni: primo, facciamo abbastanza, cosa si può fare di più perché la gente sia sensibile e abbia il coraggio civile di capire che se qualcosa o qualcuno è collegabile alla grande criminalità organizzata bisogna andare a denunciarlo, punto numero uno. Punto numero due, gli aspetti di quell'indagine un po' col punto interrogativo. Punto numero tre, la Lega ha fatto tutto quello e fa tutto quello che è giusto fare per la quantità di voti che ha nel nord, la forza relativamente più forte. Iniziamo a presentarvi gli ospiti, d'ora in poi sto zitto. Roberto Galullo, appunto, buongiorno Galullo. Buongiorno a te, radioascoltatori. Allora, lui scrive sul Sole, è autore di un blog, Guardie e Ladri, che trovate sulla pagina del Sole. Oltre a questo è autore di un libro, Economia criminale, storia di capitali, sporchi e società inquinate, che vi ricordo, perché si fate in tempo negli ultimi giorni ancora ad acquistarlo con uno sconto del 15%, se andate anche qui sulla pagina del Sole, però di quella dedicata allo shopping, cioè se fate www.shopping24.ilsole24ore.com e lì potete ordinare questo libro, Economia criminale, storia di capitali, sporchi e società inquinate. In questa prima parte, oltre a Roberto Galullo, che si ferma con noi per tutta la durata e adesso ci darà le sue prime indicazioni, c'è Matteo Salvini, che è deputato europeo della Lega Nord. Buongiorno Salvini. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Roberto, io direi se puoi iniziare per qualche minuto semplicemente forse dal punto più delicato dei tuoi approfondimenti, cioè questo aspetto del perché la politica mancasse nelle misure cautelari e nei nomi che escono il giorno di metà luglio in cui scatta l'operazione Crimine, e se quelle modalità che a me colpirono, di cui parlammo intorno alla designazione di un capo ottantenne in un ristorante, forse sbaglio io perché non capisco che la realtà a volte supera la fantasia. Ecco, iniziamo da questi due punti. Che impressione ti sei fatta con i tuoi approfondimenti? Allora guarda, io comincerei con rispondere alla seconda domanda che tu mi poni in maniera molto sintetica, per darti l'idea di quanto chi veramente conta nelle strutture 'ndranghetistiche. Posso dirti che Radio Carcere racconta una cosa molto, molto interessante e molto curiosa, vale a dire che tutte le persone che sono state coinvolte in questa inchiesta Il Crimine sono state portate nelle carceri italiane, condotte nelle carceri italiane e indicate come capi dell''Ndrangheta, sono state letteralmente derise da chi veramente nelle carceri italiane conta, da chi è veramente ristretto al 41 bis, e quindi sono stati accolti come dei azzilli vecchietti indicati dalla stampa, dai media, cioè la colpa è nostra, come capi dell''Ndrangheta. Però c'è negli atti dell'indagine, cioè nelle motivazioni dei provvedimenti, quindi non è che se l'è inventata la stampa. Le carte raccontano una cosa diversa, le carte raccontano che ogni anno, e questo qui lo si sa da sempre, intorno al santuario di Polsi, per la festa della Madonna della Montagna, che è il 2 di settembre, ricordiamolo, nella zona si riuniscono e si raccolgono capi dell''Ndrangheta, boss, gente che comunque conta, che decide per l'anno entrante chi deve essere, chi ha il compito di gestire quello che è un evento importantissimo per l''Ndrangheta, che è appunto questa riunione. Oppedisano non è il boss dell''Ndrangheta, non è il numero uno dell''Ndrangheta, è una persona che oltretutto viene anche misconosciuta o disconosciuta dalle forze dell'ordine, dai magistrati, dagli inquirenti, che ha il compito di divertirsi con quelli che sono e chiamano i santini, o comunque, diciamo così, questa allegra festa che per i religiosi e per i cattolici ha una valenza, per gli 'ndranghetisti un'altra. Guarda, ti racconto una cosa molto molto semplice. Alcuni anni fa, nel corso di una intercettazione telefonica in cui parenti di Domenico Pedisano parlavano tra di loro e venivano intercettati, alcuni di questi dicevano tra di loro: sì, ma lasciamo che lo zio si diverta con i santini. Cioè, non è verosimile, non è credibile. Allora, lì, diciamo, lì abbiamo un po' di colpa noi giornalisti, quindi almeno questa cosa è chiara. Quindi non si fanno le primarie. Esatto. È anche giusto prendersi la colpa. La prima domanda che tu invece mi facevi, questo è veramente un punto, secondo me, dolente. Guarda, perché lì non sono i giornalisti, i politici escono fuori in Lombardia, collegati alle famiglie in Lombardia, e in Calabria no. Allora, questo è inconcepibile, è assolutamente inconcepibile. Io sono andato a leggermi alcune carte, diciamo così, prodromiche, non usiamo parole difficili, mi scuso, diciamo delle carte che aiutano nella lettura di questo provvedimento, il crimine, da carte che datano 2006-2007. Ebbene, nel 2007 un tal Sebastiano Altomonte, una persona indagata, viene ascoltato dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e comincia a parlare di una cosa straordinaria, cioè dice: attenzione ragazzi, finora voi avete creduto che l''Ndrangheta fosse fatta di persone visibili, ebbene esiste una struttura parallela fatta di persone invisibili, ed è un lessico, una terminologia che viene para presa da quello che è il linguaggio massonico, cioè chi appartiene all''Ndrangheta che conta è una persona invisibile. E attenzione, questa persona che viene ascoltata dalla magistratura dice chiaramente: tutto ciò è cambiato, questa struttura è cambiata alcuni anni fa. Viene ascoltato nel 2007, che cosa accade due anni prima? L'omicidio di Francesco Fortugno, che rivoluziona il 16 ottobre 2005, rivoluziona la mappa politica calabrese, rivoluziona la mappa politica italiana e rivoluziona la struttura verticistica o meno dell''Ndrangheta in Calabria. Questo è un primo passo importante. Di quell'interrogatorio, di quella inchiesta, nulla si sa. Ma la cosa straordinaria, oltre a questo, è che alcune settimane fa a Reggio Calabria c'è una grandissima operazione, una grandissima inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Si chiama inchiesta Meta, un'inchiesta che ridisegna, ristruttura le mappe e le cosche che insistono in quella città, il potere criminale di quella città. Ebbene, all'interno delle indagini preliminari, all'interno degli atti preliminari, c'è una persona che parla e dice, con riferimento alla politica di Reggio Calabria, alla città di Reggio Calabria: ora entriamo qui in politica, testualmente. Ebbene, questo è uno dei passaggi, diciamo, delle carte che tirano in mezzo la politica di tutto questo, nel decreto di fermo, poi successivamente convalidato, nelle carte di Reggio Calabria non c'è traccia, la politica è scomparsa. Ora, chiunque... Allora, io non ti voglio interrompere, però aspetta un secondo, questo è un punto che, se è così, e con malgrado i nostri approfondimenti non riusciamo a capire, io mi prendo la responsabilità di dire personalmente, Oscar Giardino, controllo di questa trasmissione, è un punto che a me continua a non risultare chiaro ed è un punto pesante. Perché lo dico? Perché siccome nel proseguo della trasmissione ci occuperemo della politica fa abbastanza nel nord, allora quello che io mi aspetterei è che indagini che partono da tutte le famiglie dell''Ndrangheta in Calabria, proiettate nel nord, in cui al centro ci sono anche, come è giusto, perché questo c'è, lo tocchiamo con mano nella storia italiana, connivenze con la politica, se le connivenze della politica diventano poi esclusivamente quelle di un ex assessore provinciale, Olivero, in Lombardia, di alcuni politici locali a Pavia, di un capo, un ex direttore amministrativo di un'ASL a Pavia, quindi stiamo parlando comunque di figure che hanno un peso amministrativo, non esattamente in piccole cittadine, ma poi negli atti della magistratura non vediamo niente e scompare tutto quello che è la politica là, io mi chiedo, punto interrogativo, senza voler avanzare alcun dubbio su pubblici ministeri di specchiata, perché da Boccasini è un nome che è una garanzia per tutti in Italia, detto questo c'è qualcosa che continua a non convincermi. Fermo Roberto un secondo e riprendiamo con te dopo. E allora a questo punto chiedo, ho voluto fare questa premessa su il concreto della politica negli atti di quell'indagine, perché ai miei occhi di giornalista, quando Roberto Saviano pone una questione come quella, dice dov'era la Lega, io innanzitutto parto dagli atti della magistratura. E adesso chiedo a Matteo Salvini, deputato europeo Lega Nord, dopo aver detto prima di capire, prendere sul serio tutto, poniamoci anche la questione di quello che gli atti per il momento non ci dicono ancora e del perché non ce lo dicono nel Sud. Però chiedo a Matteo Salvini che risposta dà all'interrogativo avanzato da Roberto Saviano ieri. Ma innanzitutto io penso che si faccia tanto, si può sempre fare di più. Io ricordo che una delle prime raccolte firme che feci quando entrai in Lega nel 1990 era contro il soggiorno obbligato dei mafiosi al nord. Legge scellerata che evidentemente oggi sta dando i suoi frutti, perché se andiamo a guardare non solo a Pavia, ma a Milano, a Monza, a Como, a Lecco, a Sondrio, chi è stato arrestato 15 giorni fa, evidentemente non viene giù dalle valli della Bergamasca o della Bresciana. Quindi fortunatamente quell'istituto non c'è più, allora Saviano probabilmente aveva 15 anni, però la Lega già allora diceva mandare i mafiosi in soggiorno obbligato, costringerli a vivere al nord per sradicarli dal loro territorio, rischia di portare mafie, camorra e 'ndrangheta anche da altre parti, e così ahimè è successo. La Lega ha 400 sindaci al nord, la mafia esiste, la camorra esiste al nord, magari gestisce il bar che abbiamo sotto casa, sicuramente gestisce il racket delle case popolari come emerso a Milano, sicuramente si è infilata nel sistema degli appalti e dei lavori pubblici, dalle strade alle autostrade, alle cave, agli scavi. E su questo posso garantire che diversi amministratori locali leghisti, anche a pena di minacce di morte, stanno lavorando giorno dopo giorno, si stanno istituendo dei fondi anti-racket e anti-usura in tanti comuni, perché è chiaro che qualcuno non denuncia perché ha l'acqua alla gola, qualcuno è costretto a vendere il negozio, a vendere il bar, a farlo gestire dai mafiosi perché ha l'acqua alla gola, quindi una realtà locale può istituire dei fondi economici per andare incontro a queste persone. Detto questo, si può fare di più. Io le parole di Saviano, che rispetto, che stimo, di cui ho letto il libro, che mi è piaciuto, però è un bravo scrittore, non necessariamente deve essere anche un bravo analista delle cose politiche. Francesco Totti è un grande campione di calcio, ma quando attacca la Lega, secondo me lascia il tempo che trova. Quindi l'ultima nota che posso fare a Saviano e a coloro che si chiedono cosa sta facendo la Lega è un suggerimento: di andare sul sito www.interno.it, il sito del Ministero dell'Interno, in alto a destra ci sono i risultati di questi due anni di lotta alla mafia, e su questo i numeri mi sembra che contino più di qualsiasi analisi. Comunque, Salvini, quando dice gli amministratori della Lega si stanno prodigando per esempio per moltiplicare i fondi anti-racket, cioè per consentire il sostegno finanziario a chi, avendo l'acqua alla gola, può finire preda delle reti di chi ti dà soldi facili, poi ti chiede interessi altissimi, poi magari rileva l'impresa e quindi mette piede. Da questo punto di vista, forse, viste anche le dichiarazioni, ricorda di quando il prefetto di Milano rilasciò delle dichiarazioni tempo fa, quando si parlava delle prime possibilità che le grandi reti criminali si affacciassero in vista di Expo 2015, ancora con più forza a Milano, e il prefetto rilasciò una dichiarazione che fece molto discutere, perché era una dichiarazione di quelle che per molti decenni si riservavano al sud, quando disse insomma che le reti criminali qui non c'erano. Allora, quello che forse si può fare è pensare a un potenziamento ulteriore di questi risultati ottenuti dal ministro Maroni. Insomma, io ho un po' l'impressione che ci sia un tentativo, glielo chiedo, questa è una domanda un po' da fiction. Lei non pensa che ci sia qualcuno che atti alla mano, può avere qualche sospetto, che per anni, visto che ci stiamo parlando di filoni di indagine che ci vogliono rimettere la testa sulle stragi 92-93, in definitiva questo procedere verso il nord delle grandi reti criminali vedeva anche con favore il fatto che la Lega era su posizioni molto secche nel chiedere il riequilibrio fino al punto di arrivare quasi alla secessione, perché in alcuni atti di indagine, poi lo vedremo anche facendo parlare Roberto di questo, alcuni filoni della magistratura hanno quasi questa convinzione. Lei rispetto a questo, Salvini, che ci dice? Ma io in passato ricordo che qualcuno, non mi ricordo chi, arrivò a dire che il federalismo avrebbe aiutato la mafia, quindi la Lega era sostanzialmente alleata della mafia, perché così il Sud sarebbe stato preda esclusivamente della malavita organizzata. Penso che sia un'analisi abbastanza delirante, penso che la storia degli uomini e delle donne della Lega sia lì a testimoniarlo. Probabilmente qualche tono è stato sbagliato, lei parlava del prefetto di Milano, in quell'occasione non disse la mafia non esiste a Milano in Lombardia, perché solo un cretino potrebbe sostenere una tesi del genere, disse che non è quella con la coppola e con la lupara che conosciamo in altre aree del paese, probabilmente è anche più pericolosa, probabilmente è meno visibile, come diceva Galullo, io ho più paura di quello che si nasconde, ripeto, nel bar sotto casa mia o nell'ospedale del mio quartiere, che evidentemente non va in giro con la coppola, ma va in giro in giacca e cravatta, ma fa molti più danni. Io penso che la Lega sia vissuta molto male da alcune di queste persone. Negli ultimi mesi in Lombardia sono stati, ahimè, non dico indagati, perché le indagini poi devono avere un riscontro, sono stati arrestati diversi esponenti locali, sia di centrodestra che di centrosinistra, per vicinanza a questa o quella famiglia mafiosa, evidentemente una realtà che porta l'amministrazione più vicina ai cittadini, secondo me combatte, va a stanare questo tipo di situazioni, perché se c'è un giro d'affari strano in una lavanderia, in un bar, in un negozio di abbigliamento, se c'è una gestione strana dei ricoveri in una clinica o dell'assegnazione delle case popolari in quel quartiere, se l'amministrazione vicina al territorio ce ne accorge. Quindi io penso che una gestione federale sia molto più efficace nella lotta a questo tipo di criminalità. Detto questo, nessuno pensa di sconfiggerla in due ore. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di alcuni aspetti che abbiamo approfondito grazie a Roberto Galullo, continueremo a farlo, di questa indagine, il crimine che a metà luglio ha rimesso in particolare la Lombardia di fronte alla forza del radicamento di tutte le maggiori famiglie dell''Ndrangheta in Lombardia. Abbiamo visto la prima risposta della Lega con l'onorevole Salvini alla domanda di Roberto Saviano: ma voi dove eravate? Che cosa avete fatto? Avete fatto abbastanza? State facendo? La prendete sotto gamba oppure no? E in questa seconda parte della trasmissione, oltre a Roberto, sono con noi Alessandro Cattaneo, che è il sindaco di Pavia, uno dei centri in cui i provvedimenti cautelari hanno sottolineato con più forza come ambienti politici, amministrativi, sanitari fossero diventati pezzi di malavita calabrese, e abbiamo con noi anche Don Eros Monti, vicario episcopale per la vita sociale della diocesi di Milano, che ho voluto con particolare calore e lo ringrazio molto, perché sono convinto che anche qui in Lombardia, nel nord come nel sud da molti anni, la Chiesa possa avere un ruolo essenziale con i suoi pastori nel parlare alla gente, chiedendo loro non il coraggio impossibile, ma chiedendo loro innanzitutto di aprire le orecchie e di aprire il cuore, e poi anche però, una volta che si apre il cuore, le orecchie e gli occhi, li si connette su questo particolare problema, porsi il problema di come insieme, quindi non solo con il coraggio che gli individui certe volte non si possono dare da soli quando ci sono minacce di violenza, ma insieme cosa si possa fare per tentare di dare un pochino più di coerenza alla cifra etica del mondo in cui viviamo. Cominciamo con il sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo. Lei in questi giorni ha rilasciato qualche intervista dicendo: io devo difendere la mia città, perché insomma noi non siamo diventati né Las Vegas né un centro di quelli che deve essere conosciuto solo per il radicamento della criminalità. Tuttavia, la domanda che le faccio, sindaco Cattaneo, È stata una sveglia davvero inaspettata, non rispetto ai nomi oggetto dei provvedimenti della magistratura, è ovvio che non è questo che sto chiedendo. Sto dicendo, quando si legge di una città in cui uno dei suoi centri sanitari di eccellenza, boss di particolare rilievo, rimangono lì a farsi curare per giorni, evidentemente contando sul fatto che abbiano una totale impunità, cosa di cui si stenta ad apprendere che avvenga in Sicilia o in Calabria, certo qualcosa colpisce. Che cosa succede nella sua città, sindaco? Sì, buongiorno innanzitutto a tutti i radioascoltatori. Beh, certamente la città di Pavia è stata colpita e è in qualche modo anche scioccata, insomma, dall'inchiesta. Poi a questo punto ci si chiede sempre, io per primo, abbiamo fatto tutto il possibile guardandosi indietro? E in questo senso anche alla classe politica viene sempre chiesto la maggiore attenzione e i maggiori provvedimenti. Effettivamente in città di Pavia qualche segnale c'era, credo a Pavia come nella media delle realtà del nord Italia e dell'area metropolitana di Milano, ecco, non una zona particolarmente attenzionata. Avevamo con grande attenzione guardato alle relazioni della direzione distrettuale antimafia, che già aveva parlato a Pavia come altrove di dei warning, dei segnali tipici dell'infiltrazione, soprattutto a livello economico, perché viceversa, abbiamo detto anche prima, i dati relativi al traffico d'armi, l'usura, estorsione, omicidi sono sotto media se dovessimo guardare ai classici invece indicatori di infiltrazioni mafiose. Ma è la mafia che non spara nel nord, però si infila nel capitale, nelle società, nei ganghi politico-amministrativi, e questo torna, ecco come. Esatto. Guardi, noi avevamo istituito l'anno scorso, io mi sono insediato da un anno, e a settembre all'unanimità in Consiglio Comunale una commissione antimafia. Evidentemente, questa era un sentore, era una volontà di essere sentinelle attenti, e in questa commissione antimafia abbiamo eseguito diverse audizioni di persone della società civile piuttosto che rappresentanti di categorie, penso per esempio all'edilizia o quant'altro, che sono sempre settori da guardare con grande attenzione. Rispetto all'infiltrazione, quella senza coppola appunto, nei vertici apicali dei nostri enti, è certamente semplice oggi dire che quelle scelte sono state sbagliate e che si doveva avere più attenzione. Vero anche che anche le parti più sensibili dell'opinione pubblica allora nessuno ebbe nulla da ridire, e in questo senso anche guardando al futuro ci viene quindi da pensare come davvero mettere in campo dei provvedimenti che siano efficaci e utili, perché oggi scopriamo che il direttore sanitario al telefono si gloriava di contatti con boss mafiosi, poi anche da vedere questa figura come si colloca, perché stando a quello che dice per telefono questo Carlo Chiriaco, ne abbiamo la figura di un grande capo sia politico che amministrativo, sanitario e anche dell'andrangheta. Poi in realtà lo stesso Aida Boccassini lo definisce come in concorso esterno, quindi bisogna sempre anche stare attenti, perché questa persona certamente è anche in parte un po' megalomane, ma questo non lo dico per sottovalutare assolutamente, l'indagine è serissima e queste cose vanno sradicate, affrontate di petto, per però avere sempre riscontro dei fatti, che è una cosa estremamente, io credo, importante, perché noi come istituzione dobbiamo anche essere lucidi e responsabili. Io sto incontrando anche tutte le realtà della città, perché credo che se ne esce insieme con il sistema Pavia nel mio caso, quindi incontrando da rettore, dirigente del polo sanitario che a Pavia, come ha detto, è un'eccellenza, ma anche tutte le realtà cittadine, le associazioni, quelle sensibili sui temi della legalità, ma non solo, il mondo economico. Ho incontrato il vescovo che ha preso una posizione anche lui su questo. Potremmo, scrivere tutti i codici etici più belli e più nobili. Ma non bastano, ma io su questo ha proprio ragione lei. Io posso dire, voi non lo sapete che siete in ascolto, ma questo sindaco Cattaneo è un sindaco molto giovane, che ha 30 anni. Allora, io sono dell'idea che quando, e Pavia è una città importante, insomma, allora, quando si è giovani e si ha una storia dietro di cui non si risponde, ma si ha una coscienza etica, si ha forza morale, sono d'accordo. Il punto non è tanto quello di stendere proclami e codici etici, perché nella vita amministrativa e istituzionale non è l'eccesso di norme quello che garantisce la coerenza dei comportamenti. Bisogna tenere gli occhi aperti, bisogna darsi molto da fare con la gente normale. Questo secondo me la mia preghiera al sindaco di Pavia è di non respingere le accuse alla sua città come se fossero un'infamia, ma semplicemente di moltiplicare i contatti. Tra questi contatti, secondo me, tra le tante reti, ma insomma per la storia che abbiamo e per la cultura che abbiamo nel nostro paese, una rete molto importante è quella della Chiesa. Continua a essere quella della Chiesa e per quello che mi riguarda è un bene che continui a essere quella della Chiesa. E allora i pastori della Chiesa secondo me possono fare molto, non solo nei confessionali, non certo facendo i comizi, ma facendo quello che la Chiesa fa tutti i giorni e che nel Sud ha fatto esponendosi molto, a cominciare dal vertice. Ricordate quando Giovanni Paolo II pronunciò le parole che pronunciò nei confronti della mafia, fino all'ultimo dei suoi componenti e dei suoi diaconi. Per questo secondo me è interessante sentire Don Eros Monti, che è vicario episcopale per la vita sociale della diocesi di Milano, per sentire dalle sue parole che cosa la Chiesa fa, che cosa pensa che sia opportuno fare di più rispetto a questo problema della malavita qui a Milano e in Lombardia. Don Eros, ci dica. Buona giornata anzitutto a lei e a tutti, la ringrazio ecco, per la domanda provocatoria che ci ha posto. Noi facciamo abbastanza per contrastare queste infiltrazioni di criminalità organizzata, questi fenomeni mafiosi? Noi cosa possiamo fare? Ecco, come Chiesa naturalmente non pretendiamo di aver risposto a tutti, ma ci mettiamo dalla parte di chi davvero vuole contrastare questa cultura dell'irresponsabilità, questa cultura omertosa, questa cultura individualista in cui al posto della legge, che è fatta apposta per garantire, per tutelare i diritti degli altri, propone invece il proprio personale interesse. Io credo che uno dei modi, diciamo così, migliori, più efficaci, primari, è proprio un risvegliare le coscienze, è risvegliare le possibilità, le potenzialità che sono dentro le persone, e questo non può se non passare attraverso quelli che sono i soggetti fondamentali di una società nella quale la Chiesa si riconosce. Pensiamo all'ambito familiare, che è l'ambito educativo per eccellenza. In famiglia si impara a rispettare la parola data, si impara a essere educati in una cultura della legalità, si impara ad accorgersi degli altri, così come anche la realtà della scuola, così come le esperienze associative nella quale la nostra Chiesa, che ha una presenza capillare sul territorio, si sente presente e impegnata. Credo che ci voglia un impegno anche maggiore, direi, nell'ambito della comunicazione. Si tratta di influire su una cultura che oggi tende sempre di più o all'indifferenza o al ripiegamento su di se stessi, sui propri interessi, che rischia di riguardare la cosa pubblica come una realtà distante di cui soltanto altri devono occuparsi, e appropriarsi invece delle proprie responsabilità anche come cittadini. Si dice spesso che il silenzio dei buoni e degli onesti può diventare in qualche caso vera e propria complicità nei riguardi di queste organizzazioni. Quindi ci sentiamo proprio come Chiesa un po' in prima fila, esprimiamo la nostra preoccupazione per i fenomeni emersi in questo periodo, con questa dimensione, con questa rilevanza, e davvero, come tante volte anche il nostro arcivescovo, il cardinale Tettamanzi, ci richiama, è importante come Chiesa tenere alta l'attenzione, direi anche guardare avanti, saper progettare a questa criminalità organizzata che tende a diventare sistema, che tende a diventare cultura. Per fortuna si tratta soltanto della punta di un iceberg, però che si alimenta appunto di una diffusa cultura dell'interesse personale contrapposto a quello di altri o quello pubblico. Occorre un'opera, secondo noi, formativa, educativa veramente intensa, capace di progettare, capace di guardare in alto, capace di guardare avanti, capace di non rispondere soltanto ai bisogni o alle domande dell'immediato, altrimenti ci si dichiara già un po' perdenti, altrimenti si risponde soltanto così a un raggio di bisogni immediati, ma non si sa costruire un tessuto umano, sociale nuovo. Io ringrazio Don Eros perché la mia convinzione è del tutto analoga. Solo con una forte cifra morale individuale delle reti di appartenenza, delle famiglie, delle reti, c'è una risposta che viene prima di quella dei valori che affermano attraverso con la violenza i criminali delle grandi reti, che anche loro dichiarano di prestare grande fede alla parola data, che sono più efficaci a volte dello Stato nel far valere il loro ordinamento e anche la loro tutela una volta che paghi il pizzo. La loro non è una morale, è un'antimorale più forte di quella dello Stato corruttore, perché questa sapete che è la mia opinione. E allora ci vuole una cifra di moralità individuale, delle proprie reti di appartenenza, delle famiglie, degli ambiti in cui ci si muove ogni giorno, perché è la forza di quella morale che leva l'acqua in cui altrimenti i pesci, portatori di una efficacia maggiore di quella dello Stato corruttore, diventano pesci di riferimento, pesci pilota, pesci che fanno affari e a cui fare affidamento per ottenere che le cose vadano una volta che ci si è messi d'accordo con loro pagando, esattamente come hanno detto che vanno, esattamente quello che lo Stato non fa. E torniamo in studio con una telefonata di ascoltatori. Cominciamo con Domenico. Domenico dalla provincia di Foggia. Prego Domenico. Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a lei. Volevo dire questo, io in sostanza raccolgo in questo le considerazioni che ha fatto Saviano nel suo intervento circa le responsabilità politiche, ma non parlo solo della Lega, parlo un po' in generale, diciamo così, di partito, di esponenti politici del nord, in merito al problema dell'infiltrazione di queste organizzazioni criminali nelle realtà produttive del nord Italia. Cioè, quello che voglio dire io è questo in sostanza: l'omertà intesa come accettazione dei valori della criminalità organizzata, della mafia, cioè il comportarsi da uomo, questo significa omertà, cioè il non denunciare perché non è da uomini denunciare i fatti, forse è una componente residuale che c'è nella realtà del sud Italia. Non si denuncia l'omertà che c'è al sud, è un'omertà molto spesso dettata dalla paura, non dall'accettazione dei valori della criminalità organizzata. Al nord invece molto spesso io ritengo che l'omertà sia determinata dall'interesse, dalla convenienza. Ah, quindi peggiore, perché dice al sud è per la paura, mentre al nord è perché vi conviene. Un altro conviene, perché al nord la mafia investe, ricicla, investe, e quindi l'operatore economico della realtà del nord molto spesso non si pone il problema, il denaro, le ricchezze di questi investitori che vengono dal sud, da dove vengono. E quindi in questo senso pecunia non olet, quindi chiarissimo. Domenico, chiarissimo Domenico. Sentiamo Emilio da Milano. Emilio, prego. Buongiorno. Mi chiedevo una domanda, volevo fare, ma è più mafioso voglio dire, è chiaro che non è da nemmeno vedere, cioè il tipo che va in giro con la coppola o di cui parla Garrullo, le storie, o il fatto che a Milano Santa Giulia, c'è qualcuno che se lo ricorda la bonifica di Santa Giulia? Ne abbiamo parlato tre volte. Lì c'è dentro Grossi, c'è dentro addirittura Grossi, era un esponente di Comunione Liberazione assieme al presidente della regione. Cioè è più mafioso il giro degli appalti presi in questa maniera, 20 milioni di euro di qua, cioè è più mafioso questo o che cosa? Perché la vera mafia sono gli appetiti di questi appalti, è quello il problema. Va bene Emilio, però attenzione, se parliamo del fatto che c'è la criminalità organizzata che si insinua nella filone di business anche delle bonifiche a nord è un conto, altrimenti io tengo conto che il suo è un giudizio politico, perché se lei mi vuole dire che è più mafioso Roberto Formigoni, io l'obbligo di ascoltarla con interesse e di aggiungerci una risata per spingere la sua considerazione da parte mia, perché sono proprio cose, se permette Emilio, lo dico con rispetto. Dopodiché la vicenda di Santa Giulia, risanamento, gruppo Zunino, relativa alla responsabilità degli enti locali milanesi su ciò che l'ARPA, l'agenzia regionale, diceva su bonifiche non effettuate a norma, stante che quello è una cosa in cui anche interessi criminali sono nelle imprese di bonifica, questo è un altro paio di maniche. Però alla domanda chi è più mafioso, sono più mafiosi i capi mafia, i capi mandamento che riciclano soldi eccetera, ecco, questa è la mia risposta netta. Però come sempre abbiamo ascoltato anche il punto di vista di chi diversamente opiniona come lei. Allora Roberto, sentiamo di concludere in questi ultimi 3-4 minuti, innanzitutto riprendendo esattamente quel filone che io ho buttato lì a un certo punto quando mi sono rivolto all'onorevole Salvini. È vero però di fatto che esistono fior di atti della magistratura che negli anni, ricostruendo lo sviluppo, il radicamento e anche le alleanze tra famiglie di malavita, dranghettista, mafiosa, camorrista, tentano di ripercorrere, danno qualche spazio per ripercorrere gli anni 90, gli anni della Seconda Repubblica, facendo intendere che ci sono state anche mire politiche interessate da parte delle famiglie malavitose al fatto che nel nord in effetti ci fosse un atteggiamento più filosecessionista. Non è che me lo invento io, è vero che è così. Tu ne scrivi spesso sui blog. No, no, è così, con una regia involontaria e inconsapevole, il giorno stesso in cui Roberto Saviano denunciava, come dire, un certo silenzio della Lega, io sul mio blog, guardi o ladri, ho fatto una lunga analisi partendo proprio dagli atti della direzione distrettuale antimafia di Palermo, di cui così tutti si sono dimenticati. Ci fu una richiesta di archiviazione, quindi quell'inchiesta fu archiviata, ma che cosa dicevano i PM? Disegnavano un substrato interessantissimo, vale a dire pezzi dello Stato deviato, pezzi della massoneria deviata, tra le posizioni archiviate ci fu quella di Licio Gelli, capi della mafia come Nitto Santapaola, con il benestare dell'Andrangheta e persino della Camorra. Questi atti ci raccontano che era stato deciso di creare tutte le condizioni per la secessione politica della Sicilia e delle altre regioni meridionali dal resto d'Italia. Cioè la secessione è in questi atti come un qualcosa di benvenuto per quanto riguarda la criminalità organizzata. Questo perché lo scrivono i PM, perché in questo modo riuscirebbero e riescono a meglio governare i propri traffici nelle regioni meridionali del paese. In quegli anni, negli anni 91, 92, 93, quindi questi pezzi deviati dello Stato, massoneria deviata, 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra, si misero insieme per promuovere le condizioni per la secessione in Italia. Paradossalmente scrivo che certamente Lega non è assolutamente sinonimo di mafia, lungi da me soltanto pensarlo, ma c'è una strana coincidenza di interessi, gli uni per fini politici. Non ci dimentichiamo che nello statuto della Lega Nord la parola secessione c'è ancora e per quel che mi riguarda è il fine primario di questa formazione politica. Quindi gli uni per interessi politici, gli altri per interessi puramente economici danno il benvenuto alla secessione. Io però ti dirò che ho talvolta il sospetto che di fronte a questa cosa che archivia e nell'archiviare ripropone una storia d'Italia, io mi chiedo se la magistratura non vada oltre, perché tu, io l'ho letto attentamente tutto quello che hai scritto, tu citi di decreti di archiviazione e poi dici siccome la Lega, è chiaro, la Lega persegue un obiettivo politico, ma magari quello che interessa a me è capire quanto poi davvero le famiglie malavitose, Camorra, mafia e 'Ndrangheta ne approfittino, tentino di approfittarne. Ma questo poi, è certo, ecco, ma questo è sicuro, Oscar. Io di questo qui voglio dire, ci sono anche delle evidenze, cominciano ad esserci delle evidenze, intanto nei contatti tra la criminalità organizzata ed esponenti della Lega Nord, ma poi voglio dire, alla criminalità organizzata quello che interessa è penetrare nella politica, e fare i conti con la Lega Nord oggi al Nord è, come dire, un dato di fatto, perché governano, perché influenzano le scelte di politica economica, influenzano le scelte di amministrazione, quindi una contaminazione c'è sicuramente. Questo non vuol dire che ci sia connivenza o quiescenza, però vuol dire che naturalmente la Oscar Giannino ti dice che spera che la Lega ogni qualvolta becchi uno dei suoi che viene contattato connivente lo prenda a calcio nel sedere, perché il giorno in cui ci si rende conto che non è più così la Lega perde uno dei suoi fondamenti proprio di radicamento nel nord. Assolutamente, assolutamente d'accordo con te, me lo auguro anch'io, ma in realtà non dovrebbe soltanto essere la Lega Nord a comportarsi così, tutti i partiti dovrebbero annusare l'aria, e guarda che annusare l'aria in politica è facilissimo. Questo sono d'accordissimo con te, e mi auguro con te di tornare presto a commentare i nomi dei politici che vogliamo che i magistrati tirano fuori però anche in Calabria, perché io fino a che non li vedo anche là c'è qualcosa che non mi torna. Io saluto e ringrazio Roberto Galullo, che insieme a Matteo Salvini, Alessandro Cattaneo e a Don Ero Smonti ci hanno fatto approfondire un po' di questa cosa inquietante. Insomma, nel nord cerchiamo di fare un pochino tutti un po' di più il nostro dovere, invece di sentirci solo superiori. E detto questo, grazie in regia a Pietro Lacorte e ad Antonella Migliaccio, linea al giornale radio, appuntamento a domani.